fatto dopo un bel tiro comunque al volo da parte di Pino, che si è spento sopra la porta di Fiducia. Fiducia sopra il rilancio per Geraci, Geraci per Barone, Barone però non riesce a controllare bene la palla. La palla viene poi toccata da da Milazzo e si va a spegnere sul fallo laterale. Compagno per Villafranca, però Chiesa per D'Amico, che però sbaglia, attenzione a Cannone, Cannone che si decentra verso la linea di fondo, Cannone ancora si smarca, la mette in mezzo, c'è l'intervento da parte di Pino, bloccato, poi un cross in mezzo, la palla sorvola addirittura la barriera che circonda lo stadio e va a finire fuori. In questo momento sembra che comunque sia il mister Minutella sia per adottare un nuovo cambio, vediamo se sta, sembra che ha determinato il riscaldamento il numero 21 Zangara, che sicuramente entrerà in campo per dare ancora più peso offensivo alla squadra. Ecco il cambio, sta per entrare Zangara, vediamo, l'arbitro però non se ne è reso ancora, non se ne è reso conto, quindi continua l'azione. Geraci, palla lunghissima per Villafranca, che però sembra molto stanco, ma riesce a stoppare il pallone e sarà calcio d'angolo per l'SD, Cefalù Calcio. Sembra che comunque l'arbitro non abbia intenzione di far dare il cambio al Cefalù e comunque adesso l'ha visto, sembra proprio così, vediamo anche che sembra ci sono un momento di confusione, esce Paolo Villafranca, molto stanco, comunque l'autore del rigore che ha portato al momentaneo vantaggio l'SD Cefalù Calcio e per entrare e per far posto a Zangara che sicuramente cercherà in tutti i modi di dare più spinta alla squadra. Adesso c'è Villafranca che sta per dare, vediamo a chi darà la fascia di capitano, la dà a Schicchi. Schicchi dà la fascia, riceve la fascia di capitano da palle di Villafranca. Mi sembra che ci sia stato un po' di confusione. Comunque sì, al momento ci sia un po' di confusione. Comunque la fascia al momento se la doveva avere Pino bloccato, ma va a Schicchi. Ecco il cambio, esce Paolo Villafranca, ottimo in campo quest'oggi, entra Zangara. Ricordiamo, calcio di punizione al momento per l'SD Cefalù Calcio. Zangara va a raggiungere i suoi compagni in area di rigore, va alla battuta, ci sembra Salvatore Cane va alla battuta, calcio di punizione corto, Schicchi cerca di prendere il pallone, la Crisa Fulli, impresa sicura, a terra prende il pallone. E subito Schicchi torna in difesa, nel frattempo Crisapulli rilancio lunghissimo con i piedi a cercare un centrocampista, viene però preso da come Cugino, nel frattempo anche si è svegliato anche il tifo della Spada Forese, ma attenzione nella fascia, c'è cioè Cugino uno contro uno con Pedroni che la passa di nuovo in mezzo però a Pino perde palla, cerca ma il tiro al volo lo stesso, pallone che finisce altissimo sopra la traversa con Fiducia che guarda soltanto il pallone allontanarsi. Adesso andrà Fiducia alla rimessa dal fondo. Siamo al 75esimo minuto, ricordiamo il punteggio, ASD Cefalù Calcio 1, Spada Forese 1, i marcatori al trentesimo, Paolo Villafranca sul calcio di rigore, ma attenzione, scusate, torniamo in via, si è rigata Cugino, prova il tiro, il portiere Crisapulli prende il pallone in due tempi, un tiro molto insidioso, Crisapulli non si aspettava una conclusione da parte del giocatore classe 95 della squadra ospite. Attenzione, adesso abbiamo cambiato fronte, Geraci riceve il pallone da parte di compagno, subito che la ripassa in mezzo per Cugino nuovamente stoppa la palla, però la viene intercettato da Pedroni che spedisce fuori. Adesso andrà la battuta Pino Brocato che cerca e trova Cugino uno contro uno con Campo, se ne va Cugino su due, la mette in mezzo però viene forse toccata all'ultimo dal centrocampista del Spadafore, se no non è così, va alla battuta quindi Campo che cerca qualche giocatore di campo, comunque ottimo l'intervento di Cugino che ha cercato subito l'azione, ma anche due difensori molto più grandi di lui dimostrando grandissima classe. Adesso c'è una rimessa dal laterale a favore della Spada Forese, c'è Pucci, 14, Milazzo te la passa in mezzo per Pino che fa l'1-2 con Durante che cercano di pensare il passaggio filtrato per Cannone, che però si spegne fuori. Si è alzato comunque il vento qui allo stadio comunale Menzaina in corpore Seno. Vediamo poi se alzano un gran polverone, dando molto anche fastidio ai giocatori. Fiducia a recuperare palla dalla linea di fondo e si prepara alla rimessa dal fondo, cercando di chiamare i suoi al tentativo di una nuova azione offensiva. Subito Fiducia la manda lunga per D'Amico però viene fermato in maniera fallosa da parte di Bella. L'arbitro non se ne ravvede, chiama adesso il fallo. Quindi viene chiamato il fallo a fuori adesso del Cefalù. L'arbitro non se ne era ravvisato. Vediamo che comunque, ricordiamo che comunque il Cefalù, sia il Cefalù che la Spada Forese hanno terminato i cambi. Sono entrati per l'SD Cefalù Calcio, è uscito Villafranca per Zangara, è entrato Barone per Castiglione e Cugino per Cicero. Al momento però la palla sembra, l'azione sembra fermata perché D'Amico sembra essersi fatto male. Mister Minutella scruta il campo cercando qualche nuovo suggerimento ai suoi giocatori. Per esempio vediamo che comunque sia D'Amico sembra essersi veramente fatto male. E ripetiamo, la SD Cefalù Calcio ha terminato le sostituzioni. Ricordiamo il punteggio, siamo quasi all'80esimo, la SD Cefalù Calcio è sull'1-1 con la Spada Forese. Al 30esimo del primo tempo Villafranca su calcio di rigore per un fallo di mani da parte di Scibillia, e al 50esimo è arrivato il pareggio da parte dei padroni di casa con un colpo di testa da parte di Cannone. Eccoci comunque che l'azione riprende con Geraci che cerca qualche compagno in attacco con calcio di punizione quasi oltre la linea di centrocampo. L'arbitro fischia la ripresa del gioco, subito Geraci la mette in mezzo per Cane, cerca di anticipare Crisafulli, ma non ci riesce. Crisafulli in presa sicura blocca il pallone. Ora l'arbitro ne chiede all'arbitro di far ritornare il gioco D'Amico, nel frattempo però la Spada Forese è tornata in attacco. Pino la passa a Durante la prova a mettere di nuovo in mezzo, ma il cross sembra quasi un tiro che si spegne alto sopra la traversa. Gioca comunque il Cefalù oltre le due tentativi di tiri da parte di Cugino e il tiro in precedenza di Cane non ha concretizzato molto in questo secondo tempo, al contrario della Spada Forese che ha tirato ma con pochissima precisione. Adesso subito Fiducia va a cercare in avanti Cugino che però viene fermato dall'altezza di campo. Attenzione, viene poi rimesso il nuovo messo in mezzo, Cugino però stoppa la palla, viene spinto in maniera fallosa da parte di Cugino, viene portata a terra da parte di, non riusciamo a vedere al momento di chi, da parte di Pedroni, ed viene fischiato un calcio di punizione a favore del Cefalù. Adesso va la battuta Geraci che molto probabilmente cercherà in attacco uno tra D'Amico, Cane o Barone. Al momento sembra che comunque il mister Minutella sia passato un 4-3-3 con Barone, Cane e Zangara a cercare di portare in vantaggio la squadra ospite. Durante però riesce a recuperare il pallone sulla fascia laterale. Pino contro Brocato lo spinge in maniera abbastanza plateale, ma l'arbitro non sembra ravvisarne. Di nuovo ancora la Spada Forese, la pallone in mezzo, subito in uscita sicura da parte di Fiducia che blocca il pallone. Barone viene richiamato al momento indietro cercando di andare incontro al pallone, però Fiducia un rilancio abbastanza brutto, soltanto che la rimessa in gioco da parte di Scibillia Giovanni si spegne in un nulla di fatto. Siamo quasi all'ottantesimo, siamo oltre l'ottantesimo, il risultato ve lo ricordiamo è Spada Forese 1, SD Cefalù Calcio 1. Rimessa in fondo da parte di Pino Brocato, palla lunga ma non è presa di nessuna parte, visto che il numero 4 Scibillia Salvatore la rilancia lunga, però viene fischiato un fallo a favore di D'Amico che viene spinto molto platealmente a terra. Sembra che D'Amico comunque sia, si stia abbastanza lamentando con l'arbitro per un fallo abbastanza. Quindi vediamo un po' quello che succede. Comunque sia, il pubblico si sta abbastanza innervosendo per questo fallo. Ancora nuovamente ripetiamo, D'Amico è stato atterrato. Vediamo un po' quello che succederà. Comunque si riprenderà comunque con una ripresa in gioco per a favore della squadra forense. L'arbitro aveva fermato per l'allenamento di D'Amico per constatare le sue condizioni fisiche. Il Ciavoluccio, scusate, in questi ultimi minuti l'ultimo assalto che l'ultima con l'Igea l'ha portato al pareggio. Sicuramente cercherà la squadra di Pino Minutella il vantaggio in questa partita che l'ho visto molte volte in difficoltà. Nuovamente attenzione, c'è un fuorigioco non visto da parte del guardaline. Cannone viene atterrato ed è però che Schicchi la butta in calcio d'angolo. Schicchi in calcio d'angolo, attenzione, non riusciamo a capire, l'arbitro ha firmato un attimo il gioco, sembra parlare con i difensori della squadra forense e con D'Amico e con Cicciolo. Sembra che comunque sia D'Amico abbia ricevuto una gomitata in faccia. Sinceramente è la seconda gomitata che si prende in faccia il giocatore dell'SD Cefalù Calcio. Sembra comunque che esce anche un po' di sangue, vediamo un po'. E comunque sia, l'arbitro non ha fermato il gioco successivamente, proprio perché è stato richiamato in maniera sportiva da parte dei giocatori della squadra forense. Una partita non molto cattiva, le munizioni che ci sono state molte volte sono state ben 4, di cui 3 per l'SD Cefalù Calcio, per 2 per fallo per reazione e 1 per fallo da terra. Vediamo adesso che si sta preparando il calcio d'angolo a favore della squadra forense. Stanno tornando adesso D'Amico è tornato in area di rigore, quindi tutto a posto per tranquillizzare voi amici radioascoltatori. Adesso vediamo che andrà alla battuta durante il calcio d'angolo alla sinistra, cercherà, l'aria è ghermita dai giocatori della squadra forense che rimangono soltanto in difesa con campo. Parte il calcio d'angolo, pallone basso, però viene subito presa da Pino Brocato che la lancia via, è però vittima di scusatemi, in questo momento di silenzio sembra sia successo comunque un fallo a favore dell'SD Cefalù Calcio, ed è così, andrà la battuta Mirko Compagno. Attenzione, subito il 16 Blu Calcio rientra in gioco, al momento Compagno la passa a Barone nuovamente per Compagno, Mirko scusate, la mette in mezzo per Geraci che la rilancia lungo per Zangana che però non riesce a raccogliere il pallone. Adesso è la squadra forese con Sofia Francesco che la passa indietro per Durante, blocca la palla, la passa nuovamente a Cannone che si avvicina alla linea del calcio, si avvicina alla linea del calcio d'angolo, prova l'assist, attenzione al numero 15, Milazzo che però non riesce a concretizzare, nuovo altro tiro da parte di Durante che l'aveva rimessa in mezzo, Pino, Fiducia blocca, impresa sicura il pallone, Fiducia adesso chiama i suoi in avanti, la lancio con i piedi molto lungo a cercare Gugino che però viene un po' fregato dall'altezza del suo diretto avversario, il numero 6, Bella. Adesso c'è un'attenzione, viene subito un'attenzione, viene ottima la parata di Fiducia che però è stato anticipato, l'azione è stata un po' confusa, in pratica Pedroni ha messo Scipilia Giovanni ha messo in mezzo per Pino e con il pugno Fiducia è riuscito a prendere il pallone, ma i due giocatori si sono scontrati con Fiducia che involontariamente ha dato un pugno all'attaccante della squadra forense. Al momento i due giocatori sono a terra, vediamo che interviene subito il fisioterapista dell'SD Cefalù Calcio. Siamo all'85esimo, il risultato è bloccato sull'1-1. Il Cefalù ha trovato il vantaggio al 30esimo con Villafranca sul calcio di rigore e poi successivamente è stato ripreso da Cannone che è entrato al secondo tempo, ha sfruttato l'assist sul calcio d'angolo di Pino e ha insaccato con un ottimo colpo di testa. Al momento mi sembra che Fiducia si sia ripreso e rimesso in posizione eretta, invece al contrario del giocatore della squadra forense che è ancora a terra. Sicuramente ci sarà molto da recuperare, visto che la partita è stata interrotta più di una volta per i falli subiti da D'Amico, che ha ricevuto quasi più di due gomitate. L'arbitro comunque non è andato a punire in modo severo gli autori del fallo. Ecco, comunque l'azione sembra essersi ripresa. Comunque ripetiamo l'azione che ha scatenato questo possiamo dire così, questo doppio infortunio. L'attaccante della Spada Forese, Scibillia Giovanni, ha mandato in avanti il suo compagno Pino, soltanto che il Pino ha iniziato a fare un posizione per il gioco, ma ha cercato lo stesso il tiro di Finuccia in pugno, più sicuro in tuffo, e ha cercato di prendere il pallone. L'azione era stata già terminata, ma i due giocatori hanno colliso insieme. Si riprende il gioco con la Spada Forese che manda in avanti il suo attaccante, Scibillia Giovanni, che cerca subito al lato il numero 13 Durante, però la palla viene subito presa di Pino Brocato, che la spazza fuori. Ancora pochissimi minuti di gioco, siamo quasi vicini al 90esimo. Sofia Francesco la passa di nuovo a compagno, c'è però Zangara che va pesante però sull'azione, l'arbitro non vede il fallo, c'è compagno che lancia subito lunghissimo a Barone che però viene subito supera il portiere, Barone stoppa la palla vicino alla linea di calcio d'angolo, Barone ancora cerca di farsi avanti, sarà rimessa laterale per la SD, c'è voluto calcio, i giocatori della Spada Forese si lamentano per questo, ma ci è sembrato netto il tocco del giocatore numero 7 Bella, e sarà rimessa laterale a favore del SD Cefalù Calcio. Andrà alla battuta Mirko compagno, che trova Zangara che si libera del suo diretto avversario. Zangara la rimette in mezzo, tira la braccia con cerca di la spizzata di testa Barone, ma Cristofulli blocca in presa sicura. Sale nuovamente compagno, si va sulla linea di centrocampo, compagno la prova a passare a Zangara, viene però fermato Cannone però viene con uno contro uno con Ciccio compagno, che riesce a controllare il difensore, l'attaccante della Spada Forese, e fa scivolare il pallone fuori dal campo. Rimessa dal fondo la parte di Fiducia, che la manda lunga verso la fascia destra, ma si spegne sul fuori. Di nuovo la Sofia per Durante di nuovo per Sofia, sezione 1-2 con Cannone che prova ad andare avanti, attenzione però a Gugino perde palla vicino all'area, e con grandissima esperienza Pino Brocato tira, se vogliamo dire, fa un passaggio molto forte verso il difensore e riesce a conquistare una rimessa laterale. Pallone lungo per Cane, che però spinge il suo diretto avversario, viene chiesto un calcio di punizione. Punizione quindi per la Spada Forese, quando ormai siamo agli sgoccioli del 90esimo, il risultato è sempre sull'1-1. Il numero 15 ora, Milazzo, viene richiamato dall'arbitro nel dirgli e viene detto di battere il calcio di punizione nella posizione giusta. L'arbitro comunque al momento sembra quasi per ammonire il numero 15 entrato nell'ultimo, Milazzo, per il suo comportamento abbastanza antisportivo, visto che si è avanzato di qualche metro la palla. Milazzo adesso la mette di nuovo in mezzo, grande confusione in aria, c'è Schicchi che rilancia a lungo, però viene buttato a terra da parte di Pedroni e sarà calcio di punizione per la SD Cefalù Calcio. Sembra che comunque Schicchi sia rimasto a terra dolorante. Vediamo un po' se sicuramente ci sarà molto da recuperare, quasi sicuramente tra i 4 e i 5 minuti di recupero. Vediamo adesso che Schicchi con difficoltà si sta per rialzare. Sì, adesso Schicchi fortunatamente non ha bisogno dell'aiuto del fisioterapista della squadra e si alza e si va a mettere in posizione. Siamo al 90esimo, ci saranno 3 minuti di recupero. 3 minuti di recupero ci sembrano sicuramente molto poco, ma vedremo un po' se l'Acciapolù riuscirà a sfruttarli. Compagno, la passa lunga cercando uno tra Barone e Zangara, ma i due non riescono a capirsi. Se non riesco ad anche dirsi, attenzione, si nuova, attenzione, c'è Blu che va, cerca subito la pressione alta nei confronti di Campo, Campo che però riesce a controllare la palla con D'Amico che però cerca di fastidire il difensore. Adesso c'è venuta la segnalazione dell'arbitro, saranno 5 minuti di recupero, una scelta abbastanza giusta da parte dell'arbitro con tutto il tempo che si è perso per i falli subiti da parte dei giocatori del Cefalù Calcio. Attenzione a Cane, Cane stoppa di prendere la testa, ma ancora Campo, Campo che la rilancia lunga fuori dall'area ai nostri occhi. Pino Brocato adesso prova a mandare, prova sicuramente a far salire il baricentro dei suoi. Brocato cerca, cioè Cane che viene spintonato in maniera molto proteale, l'arbitro viene, cambia comunque il, chiama il cambio di posizione visto che l'elemento del laterale è stato sbagliato da parte di Pino Brocato, va alla battuta quindi Campo che cerca qualche compagno libero, lo riesce a trovare in Pino, Pino la, poi subito di nuovo a Campo che la rimanda lunga, compagno di testa con sicurezza, la rimanda, rimanda per Pino che però fa partire la palla. Il guardaline però non si rende conto che la rimessa laterale è nei confronti della Spada Foresta. Attenzione però, l'arbitro fischia un fallo a favore dell'SD Cefalù Calcio, momenti comunque finali abbastanza confusionali. Adesso andrà alla battuta della rimessa laterale Pino Brocato che cerca qualche compagno libero, lo trova in Totocane che la manda lunga di testa verso Cugino che però riesce a prendere la palla. C'è cioè, poi attenzione però il cristiano contro Pianese, cioè, però viene fermata dal guardaline, Pino si era ritrovato solo 1-1 con fiducia, ma l'arbitro ha alzato la bandierina del fuorigioco chiamando così l'offside. Ormai quasi allo scadere, Cefalù sicuramente cercherà in questi ultimi secondi della partita il gol del vantaggio. Adesso vediamo compagno che la manda lunga per Cugino. Cugino controlla la palla di testa, viene spinta in maniera abbastanza pesante da parte di Campo, ma addirittura il guardaline non solo non vede il tocco di palla da parte di Campo, ma assegna addirittura una rimessa laterale a favore della squadra di casa. C'è Geraci che però controlla, prende la palla, prende di testa e la rispedisce in fallo laterale. Campo subito cerca qualcuno dei suoi compagni libero, lo trova però viene subito, la palla è subito vittima di Pino Brocato, c'è Barone, Barone che la stoppa per Cane, D'Amico, D'Amico che però si trova contro due, addirittura viene fermato in maniera fallosa ma l'arbitro nuovamente non fischia, 1-2 contro, viene sbagliato tra Pedroni e la squadra, no, c'è Voluca in attacco, Cane, Cane per Geraci, Geraci però non riesce a raccogliere il pallone, adesso c'è Gugino che a centrocampo non stoppa in maniera perfetta, viene, la palla è vittima di Pino Brocato che spazza via e viene ed è facile però presa da parte di Crisafulli. Crisafulli rimessa dal fondo, lunga, attenzione, sbaglia il colpo di testa D'Amico, c'è un tocco di mani non ravvisato però dall'arbitro e la squadra forse continua la sua situazione offensiva. Durante la mette in mezzo e però viene intercettata da Pino Brocato che rilancia a lungo il pallone, ancora la squadra forse, nuovo cross in aria, nuovamente Pino Brocato la manda via, Geraci allunga il pallone, prova a passarla a Cane ma è sveglio Campo che ferma il tutto, prende la palla, ma che c'era ancora nuovamente Pino Brocato, la manda a lungo per Totocane, Totocane che ha un grande intercettazione, Totocane 1-1, riesce a marcare il difensore solo contro Brocato, contro Barone, Barone solo contro Crisafulli, ma il guardaline ha fermato il tutto per fuorigioco, molto dubbio questo fuorigioco perché ci è sembrato che Giovanni Barone era in linea con l'ultimo uomo, l'arbitro ha fischiato ma l'azione non è ancora finita, Geraci, Geraci che prova l'innesco di Cane ma sbaglia in maniera grossolana. Adesso vediamo che comunque ancora il numero 14 Cannone che trova il suo compagno durante che se la allunga troppo, ma arriva ancora la attenzione, viene fischiato però un calcio di punizione, a lei è sembrato che comunque il buon intervento di Ciccio Compagno è soltanto per buttare la palla fuori, l'arbitro ha visto un calcio di punizione secondo noi molto dubbio e quindi questa partita, sicuro, questa partita per la SD Cefalù Calcio si chiuderà in difesa. Vediamo un po' cosa riuscirà a concludere la Spada Forese. Sta andando alla battuta Campo, tutta la retroguardia la contraguardia difensiva della squadra forense è riversata in attacco, lasciando soltanto Campo come unico uomo in difesa. Torna anche Barone per aiutare i suoi, vediamo questo calcio di punizione come si muoverà vicino, ricordiamo è quasi un calcio d'angolo abbreviato. Va la battuta Campo che la mette corta in mezzo, attenzione, subito viene messo il primo fiducia di Lucia che però nuovamente in due tempi riesce a fare una parata incredibile della partita. Finisce qua con fiducia che salva all'ultimo minuto la partita. Rivediamo l'azione, fiducia, scusate, Campo la mette in mezzo, viene controllata al limite dell'area di rigore da Scibillia che con un tiro cerca l'angolo, fiducia la prende con il pugno e viene un altro tiro successivo da parte di Campone, ma è nuovamente fiducia a prendere la palla e a subire il fallo. Quindi la partita qui allo stadio comunale Mense Sana Campone Seno è finita, il risultato di 1-1. Un grande peccato per i ragazzi di Pino Minutella che comunque sono andati in vantaggio nel primo tempo grazie a un calcio di rigore segnato da Villafranca dopo un tocco di mano da parte di Scibillia. Successivamente al 50° del secondo tempo la squadra forense ha trovato il pareggio con Cannone, che è subentrato nel secondo tempo a Nani. Soltanto un calcio di punizione da parte di Pino segnando di testa. Un grande peccato per i ragazzi dell'SDC Blu Calcio che però portano il quarto risultato positivo a casa, anche se purtroppo è un pareggio. Quindi lì nello studio dallo stadio comunale della Spada Forese è tutto.